Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera vi parlo di un'attività antichissima, forse un po' trascurata, oggi è sottovalutata e che invece può assumere un valore anche simbolico insospettabile, l'arte di fare la maglia, di cui scrive Loretta Napoleoni, che è una stimata economista molto nota anche a livello internazionale, che ha scritto Sul filo di lana. Come riconnetterci gli uni con gli altri, è pubblicato da Mondadori, 174 pagine, 20 euro. L'autrice qui parte dalla considerazione che la complessità dei tempi presenti ci dovrebbe indurre a pensare in modo creativo, come scrive ella stessa. Non sapendolo o non volendolo fare sempre, rischiamo di costruire un mondo, cito sempre l'autrice, sempre più disfunzionale, voyeuristico, antisociale, altamente tecnologico, solitario e pieno di fenditure esistenziali, così scrive Napoleoni. E all'autrice, che è stata colpita anche da vicende familiari dall'impatto piuttosto grave, lavorare a maglia ha offerto, la cito, una strada per uscire dall'abisso in cui era precipitata, aiutandola a tirarmene fuori. Merito di aver individuato l'importanza di questa valvola di sfogo è attribuito al libro alla nonna dell'autrice, che alla bimba Loretta non solo insegnava a lavorare a maglia, ma accompagnava le lezioni con chiacchiere, insegnamenti e riferimenti alla cronaca e all'attualità, che fecero della maglia un'autentica scuola di vita. Ma che cosa rappresenta oggi il lavoro a maglia per l'autrice? Glielo chiediamo adesso. Buonasera a Loretta Napoleoni. Buonasera. Loretta Napoleoni, come dicevo nella presentazione del libro, fare la maglia può aiutare a recuperare una dimensione sociale, secondo lei, in un mondo sempre più complesso, e anche svolge una funzione terapeutica. A un certo punto lei scrive che se la sequenza infinita di diritti e rovesci che lavoro sta salvando me dalla catastrofe esistenziale, allora può sicuramente curare le piaghe infette della nostra società. Come si può immaginare questa funzione terapeutica del far la maglia? Sì, la funzione terapeutica della maglia esiste ed è stata anche sperimentata, nel senso aiuta molto gli anziani a mantenere il cervello giovane, infatti si chiamano yoga della mente, perché si usa sia l'emisfero di destra che di sinistra e ci sono contatti costanti che creano dei nuovi neuroni, e quindi tutto questo fa bene alla mente. C'è la parte, direi, anche sociale di lavorare per gli altri. Quasi tutti i magliai e le magliaie lavorano per gli altri, perché se uno ha una passione di questo tipo produce troppo per se stesso e anche per la propria famiglia. Non so, ci sono moltissime organizzazioni filantropiche che lavorano negli ospedali, che lavorano anche per i rifugiati, e poi c'è tutta la parte politica, quindi il Yarn Bombing, Guerrilla Knitting, questo movimento di protesta che è nato negli anni 90 e che continua ad andare fortissimo, dove si usa la maglia o l'uncinetto per migliorare l'ambiente, quindi protestare contro il degrado ambientale, si pensi solamente ai cambiamenti climatici, oppure si usa per protestare contro un sistema politico che si percepisce come repressivo. Questo è per esempio il caso della manifestazione delle donne contro Trump dopo le elezioni di Trump, nella quale tutte indossavano un cappello rosa con le orecchie di coniglio. Insomma, ci sono tantissimi modi attraverso i quali la maglia ci aggrega. Lei scrive, a proposito di questa dimensione politica, l'uso del lavoro a maglia come strumento politico ed economico di lotta sociale per sfidare il lato oscuro della globalizzazione, per denunciare dalle diseguaglianze economiche all'implosione della democrazia sociale, è forse uno dei segreti meglio custoditi della nostra epoca. Non è un po' troppo? C'è addirittura un segreto, un complotto per tenere... Ma sicuramente ci sono tanti segreti che io ho scoperto facendo questa ricerca sulla maglia. Per esempio l'utilizzo delle spie magliaie durante la prima e la seconda guerra mondiale, non si sapeva, non ho visto nessun film, non ho letto nessun libro sull'argomento, eppure essendo la maglia un sistema binario, esattamente come il codice Morse, si usava appunto la maglia, si usavano i punti come il codice Morse per poter mandare agli alleati le informazioni relative alle posizioni, per esempio, delle truppe oppure ai movimenti dei treni, ma lo stesso valeva anche dall'altro lato, cioè nel senso anche i tedeschi usavano le spie magliai. Ecco, questa è una storia, diciamo, segreta, non si sa, non si conosce. C'è tutta la parte sulla rivoluzione americana, come sono uscite le colonie a sopravvivere al blocco del tessile, perché insomma ai tempi l'unico posto dove si produceva il tessile era l'Inghilterra. Le colonie producevano la lana veniva inviata in Inghilterra, l'Inghilterra veniva processata e poi il tessile veniva spedito e tornava indietro nelle colonie. Ecco, una della prima azione che si era fatta contro le colonie fu appunto l'atto della lana, nel quale si bloccava la spedizione del tessile. Le donne si sono messe a filare e si sono messe a lavorare a maglia e a tessere anche sui telai per poter sostituire tutti quei prodotti che arrivavano regolarmente dall'Inghilterra. Una volta che è iniziata la guerra, chiaramente non avevano il tessile per poter vestire i soldati, per cui le donne hanno fatto esattamente la stessa cosa, cioè hanno fatto le uniformi, hanno fatto i calzini, hanno fatto praticamente tutto. Secondo me queste sono storie bellissime, proprio partecipazione delle donne alla storia attraverso il lavoro a maglia, silenziosa, nessuno lo sa, nessuno ricorda. Il giorno in cui è stata firmata la dichiarazione di indipendenza americana non c'era una donna che l'ha firmata, cioè il voto alle donne in America è stato dato nel 1920. A proposito di donne e politica, di donne che fanno la maglia e politica, ci sono anche le tricoteuse che normalmente si associano al terrore giacobino. Lei smonta questa immagine e dice che sua nonna era di tutt'altro avviso. Perché? Dunque, io ho imparato a lavorare a maglia con mia nonna, infatti lo racconto nel libro, e chiaramente facevamo tutto mentre lavoravamo a maglia, e una delle cose che facevamo era parlare dei libri che io leggevo, siccome io ero una grande appassionata di lettura. E leggevo La storia delle due città di Dickens, nella quale appunto si racconta di Madame Lafarge che era seduta sotto la ghigliottina e scriveva praticamente nel suo lavoro a maglia i nomi degli aristocratici a quali veniva tagliata la testa. Allora mia nonna, la prima cosa che mi ha detto, mi ha detto: ma secondo te, ma come faceva a scrivere questi nomi se le donne della rivoluzione francese, quindi le donne, diciamo, operaie, le donne che lavoravano nei mercati, non sapevano né leggere né scrivere? Primo punto molto interessante. Ma poi l'altro punto interessante che mi fece notare mia nonna è: non è vero che lavoravano davanti alla ghigliottina perché erano delle donne sanguinarie, assolutamente no. Queste donne lavoravano a maglia sempre, perché il concetto di una donna che non facesse nulla, quindi che oziasse, una donna del proletariato, quindi una donna che lavorava, era inconcepibile. Quindi in qualsiasi momento queste donne non dovevano accudire la famiglia, non dovevano accudire la casa, quindi nel momento di relax, che appunto nel momento in cui erano sedute davanti alla ghigliottina, queste donne dovevano lavorare a maglia perché dovevano essere produttive. E a proposito di donne e politica, lei ha parlato di donne che sferruzzano, molto progressiste, molto coraggiose, ma si può sferruzzare ed essere di destra? Certo, si può sferruzzare ed essere di destra, assolutamente sì. Cioè, non è, sferruzzare non è né di sinistra né di destra. Beh, però le femministe su questo discutevano. No, dunque, le femministe in realtà, infatti io lo dico nel libro, il lavoro a maglia è stata l'unica attività nei confronti della quale le femministe non si sono espresse, nel senso, sebbene fosse stata un'attività considerata come un'attività domestica, quindi di repressione della donna, cioè percepita come tale, in realtà il movimento femminista non ha detto né che si poteva né che non si poteva, di modo che durante le riunioni c'erano quelle che sferruzzavano, che era il mio caso, e c'erano quelle invece che non sferruzzavano, che non lo facevano, c'erano anche quelle che non lo facevano per scelta, nel senso che lo sapevano fare, ma che perché l'avevano imparato dalle nonne, e perché generalmente si tramanda da nonna a nipote, non direttamente da madre a figlia, perché le nonne hanno più tempo per trascorrere con i nipoti. Beh, ecco, c'erano quelle che lo sapevano fare e che per scelta non lo facevano, però nessuno ha mai detto: tu lavori a maglia per cui tu sei di destra. No, assolutamente no. Senta, nel suo libro ci sono tante istruzioni per realizzare dei capi. Lei attualmente a che cosa sta lavorando? Guardi, io adesso mi sto facendo un bel cardigan a strisce che ho visto in un negozio di un designer che costava talmente tanto che proprio neanche l'ho preso in considerazione di comprarmelo. Però ho detto, ma questo me lo faccio da sola e ci riesco benissimo. E infatti lo sto facendo quasi finito. E poi sto facendo un cappello di questi qui nordici per lo sci di fondo. Bene, allora buon lavoro e buono sci quando sarà finito il cappello. Buonasera a Loretta Napoleoni. Grazie, buonasera. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. La prima scelta importante è quella delle superiori, poi università o ITS. In un mondo sempre più a portata di mano, studiare in Italia o all'estero. Sono Maria Piera Ceci, ogni giovedì sul sito di Radio 24 troverete un nuovo podcast di Verso il futuro e oltre, che vi aiuterà a districarvi in un'offerta formativa sempre più ricca, perché ogni ragazzo e ragazza ha il diritto di trovare la sua strada. Nel mese di febbraio parliamo di studio all'estero. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Abbiamo parlato di donne antiche, di attività tradizionali che possono rappresentare una forma di resistenza ai mali della società di oggi. Allora parliamo proprio di questo, dei problemi di oggi, attraverso due libri di due tra i più celebri scrittori di lingua inglese. Il primo è il britannico Ian McEwan, autore di Macchine come me, è pubblicato da Einaudi, 288 pagine, 19,50 euro, tradotto da Susanna Basso. Un libro che ci porta nel mondo dei robot, con i quali dovremmo certo abituarci a convivere. Qui siamo in una Londra del 1982, ben diversa da quella reale. La guerra delle Falkland infatti si è risolta in un disastro, il grande fisico Alan Turing è ancora all'opera e i robot umanoidi sono quasi alla portata di tutti, almeno alla portata del protagonista, Charlie, semi spiantato ma ancora dotato di una piccola eredità materna che praticamente investe completamente per acquistare uno dei 12 Adami prodotti insieme alle 13 Eve, cioè a dei robot prototipi perfettamente simili per l'aspetto all'uomo e alla donna. La convivenza con robot però sarà tutt'altro che pacifica e i problemi che McEwan descrive col consueto stile distaccato ma implacabile sollevano le grandi questioni che oggi ci angustiano, per esempio se i robot giungeranno a sostituirci e soprattutto se i robot abbiano o debbano o possano avere un'etica. Ma attenzione, questo è un romanzo anche ironico e divertente, capace più di tanti saggi di farci riflettere sul futuro dell'umanità, riflessioni che spavaldamente lo stesso robot Adam così esprime al suo padrone. Adam disse: come pensatore interessato all'antropologia e alla politica, non devi sentire particolarmente forte il richiamo dell'ottimismo. Eppure, oltre allo scoraggiante fluire dei fatti che riguardano la natura umana e le società e la dose diurna di brutte notizie, possono verificarsi rimescolii possenti, sviluppi positivi che passano inosservati. Il mondo ormai è così fittamente connesso, seppur in modo rudimentale, e il cambiamento così diffuso, che risulta difficile percepire il progresso. Non amo vantarmi, ma uno di quei cambiamenti è proprio qui, davanti a te. Le conseguenze delle macchine intelligenti sono di tale immensa portata che non possiamo prevedere cosa voi, e quando dico voi intendo questa civiltà, abbiate inaugurato. Una delle apprensioni è che si riveli uno shock e un affronto vivere in compagnia di soggetti più intelligenti di voi stessi. D'altronde già ora, chi non conosce persone più intelligenti? C'è poi da aggiungere che vi sottovalutate. E sui robot segnalo il libro di Byron Rees, un esperto imprenditore americano che si intitola La quarta era, robot intelligenti, computer consapevoli, il futuro dell'umanità, pubblicato da Franco Angeli con Neo Società, 258 pagine, 27 euro, tradotto da Pierluigi Micalizzi. Un libro interessante per varie ragioni. La prima, perché colloca l'avanzata e la diffusione dei robot all'interno della storia della civiltà. che è sempre stata segnata da innovazioni disruptive, come diciamo oggi noi, esplosive, fin dall'inizio della sua storia. E quindi il robot giunge a caratterizzare una quarta era nella storia dell'umanità, dopo quella del linguaggio del fuoco, dell'agricoltura della città, della scrittura e della ruota. Seconda ragione di interesse: distingue e spiega le varie forme di intelligenza artificiale, quella che appare più problematica, cioè l'intelligenza artificiale generale, che dovrebbe raggiungere e superare in certi casi la capacità umana. E infine solleva e ricorda i problemi etici connessi a questo sviluppo e affronta infine il tema decisivo: se l'intelligenza artificiale possa raggiungere la coscienza di cui l'uomo si vanta e quali prospettive di soluzione possa offrire a tanti problemi coi quali dobbiamo fare i conti. L'altro autore di lingua inglese altrettanto noto di McEwan è l'americano Bret Easton Ellis, che invece non scrive un nuovo romanzo ma una sorta di diario a metà con il saggio. Il titolo è semplicemente Bianco, è pubblicato da Einaudi, 272 pagine, 19 euro, tradotto da Giuseppe Culicchia. Al centro di questo libro c'è un altro aspetto che domina la nostra società, ossia la soggezione, l'autocensura determinate da un sempre più diffuso e rassegnato cedimento alla dittatura del conformismo. Sappiamo che Easton Ellis è un liberal, non è certo un bacchettone, eppure sviluppa qui una critica molto corrosiva contro la degenerazione del pensiero progressista. Una degenerazione avvenuta in pochi anni che ha completamente esaurito ogni possibilità di confronto e di dibattito rispettoso e costruttivo. Oggi, per esempio, scrive l'autore, sarebbe impossibile il dibattito che aveva avuto luogo nel 1990, quando un romanzo dello stesso Easton Ellis era stato censurato dal suo editore. Ma allora, però, scrive l'autore, ci furono vibranti proteste e argomentazioni da entrambi i lati di questa contesa. Le persone avevano opinioni diverse, eppure ne discutevano razionalmente, guidate dalla passione e dalla logica. All'epoca l'idea di una censura da parte di una grande corporation non era così accettabile, non esisteva ancora, aggiunge, una cosa come lo psicoreato, un'accusa oggi normale. Le persone si ascoltavano e ricordo quello come un periodo in cui potevi essere fieramente convinto delle tue opinioni, apertamente critico, senza essere considerato un troll e un hater da escludere dal mondo civilizzato se le tue idee erano diverse da quelle della maggioranza. E appunto questo clima ha avvelenato il mondo progressista, come scrive l'autore nelle righe che adesso vi propongo. L'idea che se non ci si può identificare con qualcuno o qualcosa, allora non vale la pena di guardare o leggere o ascoltare, è oggi assai diffusa nella nostra società e talvolta viene usata per attaccare il prossimo, accusandolo di non essere più consapevole perché non riesce a rendere ciò che fa qualcosa di relazionabile, di essere un razzista quando l'accusato è, per esempio, solo e soltanto un bianco ignaro e distratto, o di essere un predatore sessuale e non, in alcuni casi, soltanto un coglione, uno sfigato, un cafone. Non riesco a rapportarmici è diventato un sostituto di non mi va di guardarlo. Proprio come non riesco a identificarmici, oggi significa non mi va di leggere o ascoltare quella roba. Sono frasi che si sentono sempre più spesso, simili a gridi di battaglia e non solo da parte dei millennial. Eppure l'idea che ne è alla base non è per nulla progressista. Non emargina solo gli artisti, ma anche in definitiva tutti gli abitanti del pianeta. Nella sua essenza è fascista. Ecco il vicolo cieco dei social. Dopo che hai creato la tua personale bolla, che riflette solo ciò a cui tu ti rapporti e con cui ti identifichi, dopo che hai bloccato o hai smesso di seguire le persone le cui opinioni o la cui visione del mondo condanni e non condividi, dopo che hai creato la tua personale piccola utopia fondata sui valori che ti sono cari, una sorta di folle narcisismo inizia a deformare quest'immagine così carina. Non essere in grado di o non voler mettersi nei panni degli altri, non voler vedere il mondo in maniera diversa da come tu lo percepisci, è il primo passo verso la non empatia. Ed è per questo che così tanti movimenti progressisti diventano rigidi e autoritari quanto le istituzioni a cui si oppongono. E quindi particolarmente amara è la conclusione del libro, che nelle ultime righe scrive: quando ti trovi nel calderone di una rabbia infantile, la prima cosa che perdi è la capacità di giudizio e subito dopo il buon senso, e infine perdi la testa e assieme a questa la tua libertà. Sull'impatto che i social e internet possono avere sulla nostra vita, in particolare sulla politica, c'è il libro di un giurista, Mauro Barberis, autore di Come internet sta uccidendo la democrazia, pubblicato da Chiare Lettere, 216 pagine, 16 euro. L'autore è molto preoccupato dall'ascesa del populismo e ritiene che l'osservatore del giurista possa rivelarsi particolarmente utile per affrontare questo tema. Secondo Barberis, infatti, il populismo digitale finisce per svuotare la democrazia riducendola al guscio vuoto di istituzioni e procedure parlamentari. Soprattutto il populismo digitale si rivela una macchina, aggiunge, per il controllo sociale molto più raffinata di quante l'hanno preceduta. E Barberis insiste che non il semplice ma populismo, ma esattamente il populismo digitale rappresenta il pericolo maggiore. Acquistare la consapevolezza di questa realtà significa poter affrontare le terapie da assumere, che l'autore riassume con queste parole. Primo, difendere le istituzioni contro maggioritarie non elette dal popolo. La democrazia non è mai stata il governo del popolo, semmai è il controllo del popolo sul governo. Secondo, usare il populismo digitale come cura contro se stesso, ossia imparare a usare i social meglio dei populisti. Terzo, se il problema è internet, allora va regolamentato internet. E qui Barberis esamina poi, in conclusione del libro, le possibili forme di regolamentazione: quella autonoma, quella invece imposta dallo Stato, e una forma di regolamentazione mista. Una regolamentazione mista che significa regolamentare internet tutelando, spiega, il più possibile la libertà di espressione. Una soluzione che comporta la cooperazione, ma il conflitto fra due o anche tre sistemi di regolamentazione. In prima battuta c'è il sistema privato dei grandi social, in seconda battuta apposite autorità indipendenti statali e l'amministrazione statale, in terza battuta ci sono le istituzioni statali che dovrebbero dare indicazioni sia all'industria digitale sia alla macchina statale. E a questo punto il confettino. Restiamo in argomento digitale con il club del coding di Alberto Barbero, che è docente di matematica nelle scuole, illustrato da Deborah Gregori, pubblicato da Dedalo, 70 pagine, 10 euro. I giovani protagonisti del libro, uno dei quali svogliato e appassionato solo di videogiochi, imparano a scuola i fondamenti della programmazione del computer con l'obiettivo di creare essi stessi i videogiochi piuttosto che limitarsi a utilizzarli. Un libro divertente e istruttivo, oltre che per i ragazzi, anche per gli adulti, genitori e insegnanti che vogliano saperne di più sui computer. E l'abuso dell'arnese imprescindibile con i quali tutto ciò avviene, cioè il cellulare, suscita una reazione in un'avventura di Thea. Mi dai il telefono, di Silvia Serrelli, pubblicato da Giunti, 36 pagine, 5,90 euro, dove Thea, la ragazzina protagonista, riuscirà a convincere anche i genitori che ogni tanto al telefonino si può anche rinunciare. Parlavo prima, a proposito del libro di Easton Ellis, del pensiero conformista al quale spesso gli intellettuali liberal progressisti cedono. E una prova di questo conformismo è combattuta nel libro di un grande scrittore, un premio Nobel per la letteratura, Vargas Llosa, che ha pubblicato con Liberi Libri Sogno e realtà dell'America Latina, 34 pagine, 10 euro, tradotto da Consuelo Fogante. In questo libro lo scrittore peruviano, in poche ma acuminate pagine, esamina il modo in cui l'America Latina è stata giudicata dagli europei, che l'hanno considerata subito una terra di misteri e di miraggi. La scoperta dell'America da parte degli europei viene portata a termine sotto l'impero del mito e dell'immaginazione, scrive lo scrittore, e questo tracerà il destino dell'America Latina, l'essere spesso visto, percepita dagli europei con gli stessi occhi fantasticanti con i quali la videro i primi navigatori che misero piede sul suo suolo. L'Europa, insomma, ha fatto dell'America Latina un'utopia occidentale, espressa in massimo grado nella considerazione per la rivoluzione castrista a Cuba. Qui Vargas Llosa indica le responsabilità degli intellettuali, per esempio quelle di Régis Debray, che hanno costruito, scrive l'autore, Un mito di Cuba che difficilmente avrebbe proliferato e durato tanto tempo senza la leggenda utopica, tanto contrastante con la verità storica di ciò che stava accadendo nell'isola, intorno alla quale, come Debré, appunto, ricameranno molti europei, i quali poi si impegneranno nel vedere in quell'isola il paradiso. Le Americhe Latine, dice l'autore, poi sono tante, non la si possono giudicare tutte allo stesso modo, ci sono diversi livelli di modernizzazione e sono tutte dominate, queste Americhe Latine, da una grande creatività artistica e letteraria, e proprio di questa creatività, conclude l'autore, avrebbe bisogno la politica. Egli infatti scrive che ciò di cui abbiamo ora bisogno è che l'America Latina porti a termine nell'ambito politico e sociale le stesse conquiste che i suoi creatori hanno raggiunto nel campo della letteratura, delle arti, della musica e del cinema. C'è bisogno di meno deliri e più sensatezza e razionalità. Vargas Llosa, come ricorderete, ha avuto un tragitto politico molto significativo, era marxista in gioventù, è diventato uno strenuo difensore del liberalismo, e allora è interessante leggere un altro libro di Mario Vargas Llosa, cioè Il richiamo della tribù, tradotto da Federica Niola per Einaudi, 258 pagine, 18 euro. Qui Vargas Llosa appunto spiega le ragioni della sua conversione e non nasconde la sua riconoscenza soprattutto nei confronti di sette autori dei quali parla appunto in questo libro, che sono Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich August von Hayek, Cercle Popper, Raymond Aron, Sir Isaiah Berlin e Jean-François Revel. La storia della propria evoluzione intellettuale e politica è descritta nelle prime pagine, dove tra l'altro l'autore attribuisce i primi segni del suo disamoramento nei confronti del marxismo proprio all'esperienza di Cuba e alla scoperta che quel regime era tutt'altro che un regime paradisiaco. Seguirono poi un viaggio nell'Unione Sovietica fino alla riflessione secondo la quale Vargas Llosa scopre che le libertà formali della presunta democrazia borghese non sono una mera facciata che nasconde lo sfruttamento dei poveri da parte dei ricchi, bensì lo spartiacque tra i diritti umani, la libertà di espressione, l'eterogeneità politica e un sistema autoritario e repressivo nel quale, in nome di una verità unica rappresentata dal Partito Comunista e dai suoi gerarchi, si può mettere a tacere ogni forma di critica, imporre istruzioni dogmatiche, seppellire i dissidenti nei campi di concentramento e persino toglierli di mezzo. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.